in primo piano. Venerdì 22 luglio, la Grecia è scelta da molti quotidiani come apertura. Per la Grecia cura da 160 miliardi, così titola il Sole 24 Ore. Per il Corriere della Sera, ultimo salvagente per la Grecia. La Stampa, accordo per salvare la Grecia. Per il Messaggero, uguale titolo, accordo per salvare la Grecia. Spento il fuoco greco, così titola Avvenire, mentre il Manifesto, valore d'ozo, giocando sull'uso dell'uso, uno dei liquori tipici della Grecia. Poi la politica interna, Repubblica, basta guerre tra politica e giudici, per Libero, le mani sporche del PD. Il Giornale, Napolitano si sveglia, basta intercettazioni, mentre il Fatto Quotidiano ha una notizia scoop che solo il Fatto ha, pressioni PDL sul TG1, indagate Letta e Alemanno per alcune telefonate al direttore del TG1 Minzolini. Intercettazioni, il Colle frena le toghe per il secolo XIX è il titolo, mentre l'Unità punta su paralisi di governo e mette le due facce di Berlusconi e Bossi raffigurate. Da cosa voglio iniziare? Beh, puntata finale, terza della saga del peperoncino, quella su cui il Fatto Quotidiano ha battuto per qualche giorno, e perché erano invitati un po' tutti i dirigenti di consiglio di amministrazione della RAI. E oggi c'è una novità, non solo sul Fatto, ma anche il Corriere della Sera la mette a pagina 23, la Polverini in elicottero alla Fiera del Peperoncino, lite con un giornalista. Il giornalista è quello del Fatto, Carlo Tecce, che da alcuni giorni, leggiamo in rassegna stampa, parlava di questa saga del peperoncino per la quale tutti i consiglieri di amministrazione della RAI sono stati invitati, ma anche c'era il ministro Romani, c'erano tante autorità. Il Fatto la mette in prima pagina, alla sagra del peperoncino di Rieti la Polverini arriva con l'elicottero della protezione civile, la casta se ne frega, Carlo Tecce ecco inviato a Rieti, picnic della RAI, la Polverini in elicottero arriva, appena individua Carlo Tecce, non ho nulla da spiegare, pago tutte le spese che faccio, non scoprirai nemmeno una cena a mio carico, l'importante è che non vado coi soldi pubblici, vai tranquillo, caro. E l'affettuoso caro del presidente regionale, accompagnato da spintoni e insulti del consigliere della RAI Rositani, vada via cretino, altrimenti la prendo a schiaffi, non ha capito? Le do uno schiaffo. Ecco qui il litigio, anche secondo il Corriere per Ernesto Menicucci, la Polverini arriva, dice non ho nulla da spiegare, litiga appunto con il giornalista del Fatto Quotidiano, interviene anche Guglielmo Rositani, consigliere RAI, ideatore della Fiera del Peperoncino, che si rivolge con tono minaccioso al cronista, vada via, altrimenti la prendo a schiaffi. Vabbè, questa saga del peperoncino insomma ha fatto un po' discutere. La seconda notizia che voglio segnalare la troviamo a pagina 2 del Giornale. È una vicenda che Gianmarco Chiocci racconta così. Prese a calci una volante, giudice assolto. È la storia che riguarda il magistrato Federico Sergi in servizio a Catanzaro. La legge è uguale per tutti, così è scritto nelle aule di tribunale. Solo che a volte, quando finiscono sotto processo le toghe, anche a essere più che garantisti, quella dicitura sembra vacillare, scrive Chiocci. Prendete il caso del magistrato Federico Sergi, in servizio al tribunale di Catanzaro, arrestato 2 anni fa per aver preso a calci e pugni una macchina dei carabinieri, processato con rito abbreviato nella stessa sede dove il giudice imputato presta servizio, e al dunque assolto perché il fatto non sussiste. Leggete qua. 8 luglio 2009, alle 3 di notte, il magistrato, che per anni è stato sostituto procuratore a Catanzaro per poi passare a svolgere funzioni di giudice civile, rimane coinvolto in un incidente stradale nel rione Bellavista. La scena, all'arrivo dei carabinieri, di un tamponamento di auto parcheggiata. Per motivi poco chiari, il giudice Sergi non solo oppone resistenza, ma inveisce contro le divise, finendo per prendersela con la carrozzeria dell'automobile del 112, danneggiandola, da qui l'arresto, accusato di danneggiamento, resistenza pubblico ufficiale. La toga calabrese finisce assolta dal giudice monocratico Domenico Commodoro. A far cambiare il corso del processo, che sembrava segnato a alcune novità dibattimentali, Due in particolare, l'interrogatorio dei carabinieri che ammanettarono Sergi e si sarebbero ricordati che il magistrato non si sarebbe volontariamente sottratto all'obbligo di fornire le sue generalità. E poi la rivelazione di un testimone che ha dichiarato come il PM imputato quella notte non era capace di intendere e volere a causa dell'assunzione di farmaci per l'insonnia. Ma poi Chiocci racconta al giudice Sergi, purtroppo per lui non è nuova questo tipo di infortuni con i carabinieri. Il 9 novembre 2007 il CSM gli aveva inflitto un ammonimento per aver guidato in provincia di Brindisi in stato di ebbrezza alcolica, sottoposto a procedimento penale, era stato prosciolto il 28 aprile 2004 perché il reato si era estinto per oblazione. Insomma, sentenza incredibile. La mette così il giornale, la casta in toga prese a calci una volante, giudice assolto. E da qui, dall'appello tra l'altro del capo dello Stato Napolitano sullo scontro PM, sullo scontro magistratura politica e sull'ampia pagina di politica, ripartiamo tra 5 minuti. Dalle 7.33 minuti, allora eccoci ad aprire la pagina politica. Certo, ci sono ancora tanti riflessi della giornata molto convulsa tra Camera e Senato, con il sì all'arresto dell'onorevole Papa e il no all'arresto del senatore Tedesco. Intollerabile lo scontro PM politici, così il Sole 24 Ore, pagina 19, Dino Pesoli racconta la giornata ieri del capo dello Stato, che ha avuto il tradizionale incontro con i giovani uditori, con i magistrati in tirocinio, e dunque si è trasformato questo in un'occasione preziosa per ribadire alcuni punti fermi. Il primo è: il sistema giustizia è ben lontano dall'assicurare uno standard accettabile di funzionamento, e accanto alle gravi inadeguatezze normative e strutturali va segnalato l'offuscamento dell'immagine della magistratura nel suo complesso. Poi anche l'appello di Napolitano all'uso con molta cautela dello strumento delle intercettazioni. Ma certo, questo, soprattutto il conflitto ormai sterile definito dal capo dello Stato tra politica e magistrati, è il punto anche centrale, come racconta Dino Pesole. D'altronde il momento è quello difficile: da un lato il rapporto tra politica e magistratura, dall'altro la questione morale che sta scuotendo il palazzo, gettando discredito sull'intera classe politica, proprio mentre è partito l'attacco speculativo anche nei confronti del debito italiano. Questo è il clima. Berlusconi ieri era al Consiglio dove si è parlato del salvataggio della Grecia, il governo va avanti. Certo, c'è il rapporto, si evince da tutti i giornali, con la Lega, il rapporto difficile con la Lega, dopo che la Lega ha appoggiato l'arresto di Papa, dopo che si è capito ormai dai giornali che c'è una sorta di tensione anche all'interno della Lega, che è diventata molto più maroniana e molto meno bossiana. Tanto è vero che ieri Berlusconi ha detto: ho telefonato a Bossi, è saltato il vertice perché Bossi pare abbia subito una piccola operazione, dunque oggi non si vedranno in Consiglio dei Ministri. Gli ho telefonato per fargli gli auguri per l'operazione, ha detto Berlusconi, ma non l'ho trovato. E quando gli hanno chiesto di Maroni, invece, questa frase: ho parlato l'altra sera con i suoi uffici. Cioè, come con i suoi uffici, cioè non con lui direttamente. Ho parlato con i suoi uffici, così ha detto Berlusconi di Maroni. E poi alla seconda domanda su Maroni ha detto: passiamo a un'altra domanda. E d'altronde i giornali, vedete, Francesco Belli e Anna Milella su Repubblica lo mettono così: l'incubo del Premier è questo, le toghe vogliono un governo Maroni. Vabbè, qui entriamo ovviamente come al solito nel retroscena della politica, ma questa sarebbe l'angoscia di Berlusconi secondo Repubblica. Berlusconi si fa portavoce di quella che nel PDL è una certezza, l'imminente arrivo di un'ondata di richieste di arresto, una tangentopoli che farà rotolare ogni settimana una nuova testa. E sono di queste ore i contatti dei leader del terzo polo con Maroni, individuato come il protagonista della nuova fase che si sta per aprire. Su Libero è sempre più esplicito con Salvatore Dama: Berlusconi sfida i leghisti, mi sfiducino a volto scoperto. Un'offensiva contro di me in autunno? Li aspetto in Parlamento, attendo che mi sfiducino a volto scoperto, li voglio proprio vedere in faccia. Così avrebbe detto Berlusconi ai suoi, ma anche qui usiamo il condizionale. Insomma, d'altronde la politica, sapete, e i giornali quando si occupano di politica si concentrano su quelli che sono tanti retroscena, però certo il tema questo è PDL Lega, guardate anche il giornale, Bossi si defila, guerra Maroni Calderoli, dunque un nuovo fronte secondo il giornale, mentre il Foglio in prima pagina, così Maroni cerca di anticipare l'happy ending del Cavaliere tra resistenze e incognite. Sono cominciate le grandi manovre. La Lega chiede a Silvio Berlusconi di scegliersi un successore a Palazzo Chigi, ma non per il 2013. Subito. Roberto Maroni guiderà oggi la delegazione del suo partito in Consiglio dei Ministri. E d'altronde sul Fatto Quotidiano è esplicito Flavio Tosi, sindaco di Verona, identificato come uno dei maroniani di ferro, intervistato da Elisabetta Reguitti, dice: il segretario c'è, Bobo Premier il massimo. Beh, tenta un po' di in questo caso di salvare tutti e due Tosi. Per come sono andate le cose di Papa e Tedesco, il più contento è Bossi, che ha condiviso e autorizzato tutto. Ma certo, poi sentite Tosi cosa dice di Berlusconi. Quali saranno le conseguenze ora? Possibili vendette da parte di Berlusconi? Chiede Elisabetta Reguitti. Mi creda, risponde Tosi. Non si può permettere alcuna vendetta con nessuno. Riguardo le ambizioni di Maroni, sono legittime. Meglio Maroni capo del governo o segretario del partito? Il segretario già lo abbiamo. Maroni come premier sarebbe il massimo. Ma vi state preparando per il dopo Berlusconi a fine mandato? Fine mandato? Risponde Tosi. Lo scenario è compatibile e la cosa è fattibile anche prima della fine di quel mandato. Beh, insomma, più esplicito di così, Tosi è molto molto duro. Tra l'altro, a proposito di mondo Lega, beh, c'è una notizia che oggi Libero mette in prima pagina. Il trota Renzo Bossi, il figlio di Bossi, non è iscritto alla Lega. Ma come, direte voi? Questa sorpresa, Matteo Pandini racconta questa. Trota Bossi non è iscritto alla Lega, non è un militante della Lega, incredibile ma vero. Solo il 14 luglio scorso la segreteria provinciale di Varese ha ricevuto i documenti con la richiesta di adesione del consigliere regionale. E nell'articolo, che poi continua a pagina 7, si capisce benissimo che c'è anche la foto, tra l'altro, dell'approvazione del direttivo. Evidentemente Libero ha letto i documenti. In realtà si è iscritto come semplice sostenitore nel 2009, tessera numero 56994, ma non è un appartenente alla Lega. Solo il 14 luglio scorso ha fatto la domanda formale. E Libero si chiede: cosa ne penserà Umberto Bossi, che tre anni di appartenenza prima di qualsiasi candidatura aveva imposto questo, no? Bossi aveva detto: prima di candidarsi bisogna essere 3 anni iscritti al partito. Che ne pensa? Questo non vale per suo figlio, che invece si è iscritto al partito di fatto dal 14 luglio scorso? Eppure è già, siede nel, dal 2010 al Pirellone, è consigliere regionale della Lombardia. Vabbè, c'è il primo giorno in carcere di Alfonso Papa. Tutti i giornali raccontano la sua notte. La novità più importante è questa: ha fatto una richiesta formale, l'onorevole Papa, di uscire dal carcere per votare alla Camera. Ha fatto una richiesta di questo tipo: intendo avvalermi delle mie prerogative di parlamentare, essendo nel pieno delle mie funzioni, intendo esercitare il diritto di voto e di partecipazione. E siccome, ovviamente, stando in carcere non ho il cellulare, chiedo che l'amministrazione penitenziaria ottenga il calendario dei lavori dell'Aula, quello delle commissioni giustizia, antimafia e semplificazione, delle quali faccio parte, perché voglio prendere parte alle sedute. E qui si apre un interessante contenzioso, perché essendo ancora in carica come parlamentare, che succede? Ha diritto a uscire? Verrà tradotto dal carcere e portato in aula per votare? Staremo a vedere. L'articolo migliore per raccontare questa situazione, secondo me, è quello di Antonello Caporale su Repubblica, pagina 9. Antonello Caporale è andato a raccogliere i ricordi di Enzo Carra, che allora era segretario, addetto stampa per la verità, di Forlani. Convocato da Di Pietro in procura, iniziò l'interrogatorio da uomo libero, le finì da arrestato. È il famoso arrestato a cui furono mostrate anche le manette in TV, da cui poi la legge che vieta di mostrare un uomo ammanettato, Enzo Carra oggi parlamentare, ho iniziato a guardarlo, si riferisce a Papa, guardavo lui e rievocavo quella sera di 18 anni fa, il garbo con cui i poliziotti mi vennero a prendere, mi fecero accomodare nell'automobile, una tipo bianca, e lentamente andammo a San Vittore. Come uno specchio che riflette l'immagine, doppiavo la vista, le sensazioni, le preoccupazioni. C'era lui adesso al posto mio. Guardavo lui, ma vedevo me, pensavo a me. E mi veniva ad assicurargli che i poliziotti sono meno duri dei magistrati, che la brandina non l'avrebbe trovata in ordine, che il carcere fa paura. Ma più di tutto è orribile il rumore delle porte blindate che ti chiudono la vita. Sono due le porte della cella e ciascuna ha due mandate. Trac, trac. Così inizia il racconto di Enzo Carra. E poi dice: se ti ammali in carcere muori, se ti pesa la coscienza muori, se sai che è irrimediabile la tua colpa muori, il carcere è pericoloso, muori di depressione, di cattive amicizie, muori se pensi che tua moglie ceda, muori se pensi che i figli siano avviliti, offesi. Ho avuto la fortuna di sentirmi sano, soprattutto senza colpa, senza peccato. Mi hanno inchiodato un articolo del codice di procedura penale che non esiste più, mi hanno arrestato e tenuto dentro un mese perché ritenevano che non collaborassi abbastanza. Non conosco bene il collega, la sua storia, certo però che mi sono un po' disperato per lui. E poi Carr conclude: anche Papa si dispererà, imparerà a mangiare i biscotti secchi, non so se danno ancora la minestra col formaggino o il brodo lento col dado Knorr. Questo è il ricordo di Enzo Carra su Repubblica, mentre agguerritissimo è il senatore tedesco, colui che è stato salvato dal Senato, colui per il quale il proprio partito, il PD, aveva chiesto l'arresto, lui anche aveva detto vabbè arrestatemi a questo punto, e poi nell'urna segreta del voto segreto del Senato è stato salvato. Dimettermi? Lo faccia Rosi Bindi. Parla della presidente del suo partito sul Corriere della Sera e anche su Repubblica, fa due interviste. Le chiedono le dimissioni, senatore, a cominciare da Rosi Bindi. La Bindi, ma si dimetta lei! Questa è la risposta di Tedesco. Ha la responsabilità di aver fatto nominare il parlamentare più assenteista del PD, Antonio Gaglione, imponendolo nelle liste in Puglia. Si faccia un esame di coscienza, la faccia finita con questi atteggiamenti giustizialisti. Ma non è l'unica a chiederle coerenza, ma lei è la presidente e lo fa con maggiore pervicacia, altri poi lo fanno per ragioni miserabili. Ma scusi, perché lei non si dimette? Gli chiede Alessandro Trocino sul Corriere. Se lo facessi darei ragione a chi crede che il parlamentare ha una funzione criminogena. Detto questo, se volete sulla casta, sì è vero c'è da tagliare, non capisco perché abbiamo un ristorante al Senato, uffici, c'è un'ira di Dio da tagliare, ma non guardiamo solo noi, ci sono altre remunerazioni pubbliche da guardare. Mentre su Repubblica insiste anche qui la Bindi, non ha letto una sola pagina della richiesta di arresto, dice in questa intervista a Goffredo De Marchis. E la Serracchiani, che anche lei chiede le mie dimissioni, è una giovane eurodeputata che non ha ancora colto appieno il ruolo che deve svolgere. E poi ha ricevuto pressioni riservate per lasciare il segno? Ma va, sono boiate. Se si riferisce a quel dirigente lì, D'Alema, non lo sento da 6 mesi. Insomma, la sensazione è che Tedesco, che dice sì è vero, sono abbastanza sollevato dopo essere stato salvato dal Senato. Tedesco, dopo essere stato salvato dal Senato, si sta togliendo qualche sassolino dalla scarpa. Il PD certo non va molto meglio rispetto alla maggioranza, soprattutto per la questione adesso che coinvolge il responsabile, uno dei responsabili, i massimi dirigenti lombardi, Filippo Penati. Oggi il Corriere dice: altre testimonianze di tangenti date a lui. Lui che parla, Filippo Penati a Repubblica, subito dopo il traffico. Lascio per dimostrare a chi ci vota che noi non siamo uguali agli altri. Così Filippo Penati, intervistato da Paolo Berizzi su Repubblica, l'ex vicepresidente del Consiglio regionale, a questo punto, visto che si è dimesso, ex sindaco di Sesto, ex presidente della provincia di Milano, colui che è accusato di aver incassato varie tangenti tramite alcuni prestanome, tramite alcune persone, risponde: ho voluto fare un passo indietro, alla fine ce l'ho fatta. fatta. Ma come alla fine ce l'ho fatta? Sì, in tanti mi avevano consigliato di non muovere un passo, non devi farlo, non c'è bisogno. Invece mi sono autosospeso, c'è uno stile che va salvaguardato. Io sono sereno, sicuro di poter dimostrare la mia assoluta estraneità alla vicenda. È una scelta mia che poi ho comunicato a Bersani. Era importante alla gente, dire alla gente, ai nostri elettori, questo messaggio: noi non siamo uguali agli altri. Poi Penati dice: comunque dimostrerò che assolutamente non ho preso alcuna tangente. Beh, oggi tra l'altro sul Corriere Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella raccontano che c'è un'altra persona, dopo l'imprenditore Giuseppe Pasini, costruttore edile di Sesto San Giovanni, c'è anche l'imprenditore Di Caterina, colui che ha costituito la società Caronte di trasporti, che anche lui accusa il dirigente del PD. Penati: sono stato spremuto come un limone, non se ne poteva più di questo convivere gomito a gomito con i dinieghi immotivati, i ritardi, gli ostacoli della politica, della dirigenza, dell'alta amministrazione. Adesso ho grande fiducia nei magistrati. C'è poco di più, perché i verbali dei suoi interrogatori sono segretati, ma certo, secondo il Corriere, appunto, dopo che Pasini ha detto che Di Caterina era stato il collettore indicatogli da Penati per le erogazioni di tangenti, Di Caterina conferma che è vero. E nei mesi scorsi, inquadrando questa storia, ricezione di soldi in una sorta di compensazioni tra favori alla politica, recriminazioni imprenditoriali, ai quali ricollega tutta una serie di finanziamenti che afferma di aver fatto nella seconda metà degli anni 90 e fino al 2000 per le esigenze del partito di Penati, conferma questo: sono stato spremuto come un limone. Tra l'altro, per il Corriere, le tangenti, il monte tangenti svelato da Pasini, sale fino a 8 miliardi di lire. Tra l'altro, un po' singolarmente, il Secolo XIX è l'unico giornale che riesce a raggiungere Giuseppe Pasini, vale a dire il costruttore 82enne che dice: ho dato tanti soldi. In realtà dice: non potrei fare interviste, il mio avvocato sa, mi ha detto di non parlare, la magistratura sa tutto. È Paolo Crecchi che riesce a intervistarlo a pagina 4. Dice: beh, intanto si schermisce un po'. Sì, è vero, sono elegante. Lui è noto a Sesto perché non si separa mai dal suo papillon. So fare il nodo del papillon, siamo rimasti in pochi, è incredibile, sa, tutti se lo agganciano come i camerieri. D'altra parte, l'eleganza è un modo di essere. Lei ha fatto denuncia per vendetta, chiede Paolo Crecchi. Noi lavoriamo con lo spirito del fare. Ora tutti vogliono solo arrivare. Quando la molla è quella, si perdono di vista le cose importanti. Poi ribadisce: quello che dovevo fare, l'ho detto al giudice. Parla del sogno della sua vita, le ex acciaierie Falck da riconvertire. Avrei fatto case basse, non quelle alte del nuovo progetto, sbagliate, disumane. Ma come? La firma è di Renzo Piano, chiede Paolo Crecchi. Ma Piano è un tuttologo, si occupa di troppe cose. Io avevo incaricato l'architetto Botta e un sacco di professionisti in gamba. Vabbè, insomma, poi non è che dice molto. A Milano ho scoperto logiche che non mi appartengono, sono davvero dispiaciuto. E poi dice: arrivederci, ho parlato fin troppo. Vabbè, rimango sul Secolo XIX perché bisogna leggere il politico, qualcuno direbbe, con più faccia di bronzo oggi, Egidio Banti. Il Secolo XIX sta facendo una battaglia contro i privilegi, ha scovato Egidio Banti. Tre pensioni: quella da ex parlamentare, quella da ex consigliere regionale, quella da insegnante. Ma dice lui: è vero, sono un privilegiato, ma non mi vergogno. È la legge, cambiatela e io mi adeguerò. E poi sono anche sindaco in questo momento, ma ho rinunciato allo stipendio, 800 euro. Accidenti, il sindaco di Maissana, in provincia di La Spezia. Proprio non mi vergogno, questa è la legge. Se sarà corretta, ci adegueremo. D'accordo, ci sono i cittadini che protestano, ma non si può rinunciare a ciò che è obbligatorio, non si può rinunciare al vitalizio. E poi ho versato i contributi, non me li possono mica togliere. Insomma, niente da dire, è un privilegio, è vero, ma è difficile toglierlo. Si può ridurre, va bene, sono d'accordo. Stabiliamo che cosa fare. Ma i cittadini si stanno rivoltando contro di voi, chiede Vittorio De Benedictis. Potevano dirlo prima. Comunque, niente da dire se vogliono rivoltarsi. Insomma, Egidio Banti, privilegiato io sì, ma non mi vergogno. Vabbè, la pagina della politica è molto intensa, io sono in veloce chiusura, devo segnalare, c'è molto ovviamente del salvataggio della Grecia, il piano Marshall da 160 miliardi per Atene, lo trovate tutto dettagliato a pagina 3 del Sole 24 Ore e a pagina 4 anche le banche, come hanno reagito, e le borse a pagina 5 come hanno reagito bene a questo piano Marshall. Devo segnalare che il Fatto Quotidiano ha questo scoop in prima pagina, pronto Minzo? Così il PDL detta la linea, sarebbe indagato a rischio di indagine per pressioni sul TG1, alcune telefonate che Antonio Massari del Fatto Quotidiano dice abbiamo potuto sapere esistono, di Gianni Alemanno che telefona al direttore del TG1 Minzolini per lamentarsi su un'inchiesta condotta dai cronisti Rai, e subito dopo Minzolini, che era intercettato, a sua volta chiama il cronista che l'ha realizzata e lo redarguisce con toni bruschi. E poi una telefonata di Gianni Letta nella quale il sottosegretario alla presidenza del Consiglio si interessa ad alcuni giornalisti e discute sempre con Minzolini della loro posizione in Rai. Ai ai, questi sono il titolo di prima pagina del Fatto, pressioni PDL sul TG1, indagate Letta e Alemanno. Io chiudo ricordando il sondaggio di oggi alle 8.30, parleremo di questa incredibile storia, una storia che non è solo medica, è anche umana, e coinvolge anche l'etica delle due gemelline siamesi nate a Bologna con un cuore e un fegato in condivisione. La scelta è quella drammatica che si pongono i medici, perché l'operazione di separazione porterà necessariamente, se fatta, al sacrificio di una delle due vite per tentare di salvare l'altra. Ci sono posizioni diverse dal punto di vista medico, dal punto di vista bioetico, a dire è giusto entrare in sala operatoria sacrificando una vita ma nella speranza di salvarne un'altra. C'è invece chi dice no, non si può entrare in una sala operatoria sapendo scientemente e con coscienza che si va comunque a sopprimere una vita. Oggi parlano per la prima volta su Repubblica, pagina 28, i due genitori: non è una scelta di fede, sono solo le nostre figlie. Il padre delle gemelle unite dal cuore, per l'intervento totale fiducia nei medici. Ma approfondiremo alle 8.30, ora lo spazio GR24.